Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Olimpia di Dario Ricci. Quando mi è stato chiesto riapriamo gli stadi, io ho detto assolutamente non è pensabile rivedere uno stadio, ad esempio per un derby Roma-Lazio, con 80-90 mila persone. Questo è impensabile, gli stadi non possono essere riaperti con questa numerosità e capienza. Al massimo, considerando un metro davanti, un metro dietro, un metro di lato, quindi con la classica distanza di sicurezza, è chiaro che devi dividere questo numero almeno per 3, per 4, per far sì che possa esserci sicurezza. Le parole del vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri sottolineano uno dei temi caldi di questi mesi difficili per tutti noi, per il nostro sport, per il nostro calcio. La riapertura almeno parziale dei nostri stadi, almeno per una porzione appunto, identificata in un 25-30% dalla conferenza delle regioni, ipotesi poi bocciata nelle settimane scorse dal comitato tecnico scientifico che ha scelto la linea dell'assoluta prudenza. In questo terreno impervio ci addentriamo oggi qui a Olimpia e la curiosità ci ha spinto a chiederci come nasce questa percentuale, questo 25%, che ovvio non è solo frutto di mediazioni politiche e ragioni d'opportunità. A produrla quella percentuale sono soprattutto, in primo luogo, software e algoritmi, calcoli matematici maneggiati e modulati dall'esperienza di professionisti della logistica e dell'organizzazione di eventi e anche della matematica. E allora, ne parliamo oggi a Olimpia col nostro primo ospite, l'amministratore delegato di Guy Engineering, l'azienda torinese del settore della sicurezza e dei grandi eventi, che ha elaborato per la Lega Calcio il programma di calcolo e le conseguenti procedure per l'ipotetica riapertura al pubblico dei 17 stadi della nostra Serie A. Ingegner Giuseppe Amaro, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie dell'invito, buon pomeriggio. Ingegnere, allora, da dove avete iniziato per elaborare i vostri calcoli e il modello che ne deriva? Noi siamo partiti in buona sostanza dall'esame delle configurazioni degli impianti sportivi destinati al calcio. Noi abbiamo un'esperienza nella progettazione di impianti sportivi, sia essi all'aperto o al chiuso, quindi abbiamo una conoscenza di come già la normativa legata agli aspetti della safety e security definisce dei parametri, degli standard sugli accessi, sulle uscite, sulla distinzione di percorsi e quant'altro, sulla dimensione dei vomitori, sulle caratteristiche degli spazi. E abbiamo cominciato a ragionare per tentare di capire quali erano i punti più singolari e significativi di un sistema che doveva accogliere delle persone in un periodo dove il contatto, quindi il distanziamento, ha una rilevanza molto importante e significativa. Dopodiché il nostro approccio è quello di trasformare i protocolli, no, in piani operativi che vengono declinati con riferimento alle caratteristiche di ogni sito. Modello, tra l'altro, applicabile ovviamente non solo agli impianti sportivi. Noi lo utilizziamo ordinariamente nell'ambito del settore della fire engineering, no? Noi siamo specialisti in questo, diciamo, in questo settore, e l'abbiamo utilizzato anche sostanzialmente in questo periodo per aiutare musei, sale cinematografiche, spazi per l'intrattenimento, aree archeologiche, no? Per garantire e consentire l'accesso alle varie aree, per confrontarle se la configurazione Covid era più o meno equivalente a quella del periodo no Covid. Teniamo conto che si parla di una riduzione di presenze di persone, non si confronta mai con riferimento al numero totale delle persone che negli anni precedenti avevano avuto accesso ad un sito, quindi a volte si viene a definire una situazione dove, se oggi si avessero tutte le persone che il sistema consente, si avrebbe anche un numero totale delle persone annuo, no, forse superiore a quello del periodo pre-Covid. In alcuni casi abbiamo avuto questa risposta. perché chiaramente normalmente tutte le persone sono concentrate in un periodo, invece il periodo Covid ci dovrebbe portare ad avere una distribuzione più uniforme dell'utilizzo dei servizi pubblici, dell'arte e della cultura, rispetto al fatto di andare solo il venerdì, sabato e la domenica. E con quali strumenti avete operato? Con quali simulazioni? Nella nostra attività utilizziamo strumenti di verifica dei flussi delle persone all'interno degli spazi, che già utilizzavamo nella fase pre-Covid per definire gli affollamenti massimi di alcune configurazioni particolari. E quindi abbiamo implementato all'interno di questi modelli di calcolo l'uomo cilindro, che è un uomo cilindrico di diametro 50, che è la nostra dimensione, con il distanziamento di un metro, che è quello che oggi viene indicato come distanziamento che consente di garantire, no, il non contagio per tempi limitati di esposizione al di sotto dei 15 minuti, così come dice la letteratura internazionale. Ecco, ingegnere Amaro, quali sono le differenze più evidenti tra simulazione, norme e realtà? Chiaramente nel programma di simulazione la distanza reciproca fra le persone è maggiore del metro che viene indicato come distanza delle persone che sono sedute, cioè dalla bocca della persona, no? Che quindi è un'altra configurazione, cioè la configurazione di movimento nel nostro caso è più conservativa, mentre la configurazione della persona seduta rispetterebbe il limite minimo stabilito dalla regolamentazione nazionale, cioè il metro dalla bocca, così come è stato individuato anche per le attività scolastiche. In più, no, chiaramente noi abbiamo previsto l'uso delle mascherine di protezione, quindi che è l'altra misura che nell'ambito della normativa nazionale sui luoghi di lavoro prevede che nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento, io metto come misura di protezione una mascherina di protezione. Ecco, quali i problemi poi più complessi da affrontare? È chiaro che la configurazione di tutti gli impianti sportivi ha dei punti critici, che sono i punti di ingresso, i punti di verifica al tornello, perché in un impianto sportivo ci sono due punti di controllo, l'area di prefiltraggio, l'area del tornello, l'area dei tornelli, e poi la zona di accesso da quell'area lì, che è l'area di massima sicurezza, ai posti a sedere. Quindi noi col sistema delle simulazioni abbiamo definito qual era il tempo di ingresso, cioè qual è il tempo massimo di attesa delle persone, per confrontarlo con quello previsto dalla normativa. Ordinariamente i tempi sono dell'ordine dei 2 ore, cioè quando io costruisco un impianto sportivo metto tutto un sistema di punti di controllo di accesso che mi consentono di far accedere le persone in un tempo massimo di 2 ore. Teniamo conto che nell'ambito degli impianti sportivi nazionali si va da circa il 28% dell'Artemio Franchi di Firenze al 52% dell'Olimpico di Roma. Cioè questi sarebbero i valori massimi che si possono ottenere andando a verificare il distanziamento, tenendo conto di una persona per ogni posto, quindi non tenendo conto del fatto che si potrebbero mettere uno accanto all'altro i cosiddetti familiari o congiunti, perché chiaramente comporterebbe dal punto di vista della definizione dell'acquisto del biglietto, no, una variabilità. Mi sembra significativo sottolineare che questo famigerato 25% della capienza totale non è un punto di partenza ma un punto d'arrivo. Il nostro approccio, noi per arrivare anche al valore massimo, è un approccio che comunque prevede delle fasi, perché noi abbiamo esperienza di grandi eventi nelle piazze dopo i fatti di Torino e abbiamo visto che la gente impara nel tempo l'abitudine al cambiamento. Quindi i piani che noi abbiamo ipotizzato sono piani che partono con un numero inferiore al 25%, per arrivare a questo valore alla sesta giornata di campionato in casa, in modo tale da passare 1.000 persone per ogni settore per livello, perché chiaramente alcuni stadi hanno i settori, alcuni stadi hanno sia il settore che i livelli. Faccio un esempio: lo Stadio Olimpico di Roma ha solo settori, non ha livelli, perché ha un unico livello, mentre l'Allianz Stadium, così come degli altri stadi, hanno, oppure il San Siro, hanno settori con distribuzione del pubblico su più livelli e con ingressi e uscite distinte, quindi si possono rimodulare spazi da 1000 spettatori in livelli e settori diversi e quindi gestirli in maniera, diciamo, diversa. Altrettanto graduale sarebbe o sarà l'ingresso e l'uscita dagli impianti, giusto? Le fasi di ingresso sono, diciamo, tra virgolette, complesse, ma sono più complesse quelle, diciamo, dell'uscita, dove bisogna fare in modo che il pubblico che accede allo stadio deve immaginare di rimanere all'interno dello stadio per un tempo maggiore rispetto a quello precedente. Questo era il motivo per cui all'interno dell'impianto sportivo si è data indicazione alle squadre di avere un po' di intrattenimento semplice, ma magari facendo vedere qualche immagine della partita o qualche altro tipologia di intrattenimento, in modo tale che possano uscire tranquillamente per fila senza far sì che si avvenga un assembramento in corrispondenza dei comitori. Quindi è un processo virtuoso, cioè non si è mai pensato di portare il 25% tutti in una volta. Davvero interessante, ingegnere, soprattutto perché ci aiuta a capire che, insomma, numeri e comportamenti sono strettamente legati e gli uni nascono dagli altri e viceversa. E allora, Giuseppe Amaro, amministratore delegato di Gaia Engineering, speriamo di ritrovarci presto in uno stadio pieno come ai bei tempi, mi viene da dire, e grazie intanto di essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, buona serata. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Olimpia. Devono essere graduali. In questo momento abbiamo riaperto le scuole e le università, non è il momento di riaprire altro. Cioè, se può bastare avere 1000 persone, può essere anche accettabile perché sono molto distanziate, però una riapertura in questo momento non ce la possiamo permettere. L'epidemia sta salendo, abbiamo fatto già le riaperture di scuole e università, gli effetti di questo si vedranno verso la fine del mese, inizi di ottobre, quindi dobbiamo aspettare. Il parere dell'immunologa Antonella Viola, condiviso, va detto, da molti suoi colleghi, oltre che dal Comitato Tecnico Scientifico, ci riporta nel cuore di questa puntata di Olimpia. Tema: la riapertura almeno parziale dei nostri stadi, l'analisi di strumenti e processi che portano alle decisioni relative in questi tempi di pandemia, l'impatto di queste scelte strategiche sul nostro sport, sui nostri sport. Ne parliamo ora col nostro secondo ospite, che rappresenta una delle realtà che costituiscono il Comitato 4.0, che riunisce la Lega Pro del calcio e le istituzioni di basket e pallavolo nazionale, che condividono problemi e rivendicazioni in questo difficile momento. Pietro Basciano, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buon pomeriggio. Presidente Basciano, basket che soprattutto nelle serie che seguono là è tra gli sport più in sofferenza. Sì, sicuramente, come il nostro caso, come il caso del basket. Noi abbiamo discusso nelle scorse settimane come Comitato 4.0 anche con il ministro Spadafora e con i suoi collaboratori per chiedere l'apertura almeno al 25% dei palasport. C'era stato anche un intervento da parte del Presidente Bonaccini, Presidente della Conferenza Stato-Regioni, che aveva ragionato anche loro, avevano ragionato sull'apertura del 25%, però poi purtroppo il CTS ha bloccato tutto quanto. È una situazione un po' paradossale, se vogliamo, perché la domanda che mi pongo io da semplice cittadino, non da Presidente della Lega, è: in una struttura, in un palazzo da sport da 5.000 spettatori o da 10.000 spettatori, cosa sia il 25% e che tipo di problemi possa creare 25% di ingressi? Ancora non l'ho capito, onestamente, e chiederei a qualcuno del CTS se sia così gentile da darci risposta, perché i controlli agli ingressi, tutte le società si stanno attrezzando con sistemi per il controllo delle temperature, i controlli durante le partite, dove vediamo che gli steward continuamente attenzionano l'uso delle mascherine, controlli anche alle uscite per evitare assembramenti alle uscite. vorrei capire dove è il vero problema. E mi sembra assurdo tutto quello che sta succedendo. La situazione è molto critica, perché rischiamo, qui veramente forse qualcuno non ha capito, che si rischia di fermare tutto il nostro mondo, che non è poco. Di che perdite parliamo, Presidente? Ma guarda, guardando il NLP, noi siamo 91 club. Già il numero può darvi un'idea di quello che potrebbe essere il blocco dell'attività. Considerate che noi fino al 2019 avevamo oltre 1 milione di spettatori e portavano al botteghino, ai club, quello che purtroppo, non avendo diritti televisivi, non avendo altri diritti, permettono ai club di poter fare economia. Mancare il botteghino, è chiaro che manca una buona parte dell'attività, che, attenzione, è collegato poi anche al mondo degli sponsor, perché nessuno sponsor verrà mai, o comunque ridurrà l'investimento nel nostro mondo, poiché non c'è pubblico. Quindi è chiaro ed evidente che questo può succedere. Quindi verrà a mancare non solo il botteghino, ma verrà a mancare anche una parte delle sponsorizzazioni. Posso assicurarle che superiamo abbondantemente, per ogni club di A2 superiamo sicuramente 700-800 mila euro, e per quanto riguarda un club di B superiamo sicuramente 200-300 mila euro per ogni club. Quindi sono, sommando per 91, capisce che sono dei numeri abbastanza alti. Ecco, cosa state facendo per parare il colpo? Noi come Lega abbiamo deciso, un po' anche criticati da molti, abbiamo deciso di iniziare il nostro campionato a metà novembre. L'abbiamo deciso un po' anche per capire cosa succedeva in questi mesi, per avere più tempo per ragionare nell'eventualità che le cose andassero a peggiorare. Quindi abbiamo lavorato guardando in prospettiva futura, un po' più là, ma con prospettiva futura, quindi lavorare su alcune iniziative. Stiamo lavorando anche moltissimo sul discorso dello streaming, in particolare per la Serie B, per cercare di dare visibilità non solo ai club, ma anche ai nostri sponsor. E partiremo a ottobre con la Supercoppa, che chiaramente sarà un assaggio per capire un po' cosa succede con il nostro pubblico, ma quello che cerchiamo di capire è effettivamente cosa succederà nel mese di ottobre per poi arrivare a novembre. I nostri club stanno lavorando, ripeto come ho detto prima, per rendere attenzione massima all'eventuale rischio contagio, quindi si stanno attrezzando chi più che meno con sistemi ad alta tecnologia per l'ingresso, per la misurazione e l'ingresso dei palazzetti, per evitare gli assembramenti. Stiamo lavorando come Lega, dando supporto ai nostri club con dei protocolli, con le linee guida sui protocolli da seguire. Quindi stiamo cercando di dare man forte a tutto quanto. È chiaro che poi tutto questo si ferma dal momento in cui, purtroppo, poi dall'altra parte c'è il CTS che ci blocca su tutto. Le vostre richieste a questo punto? Guardi, noi abbiamo discusso settimana scorsa con il ministro Spadafora e con i suoi collaboratori, facendo presente un po' qual è la nostra situazione, che raggruppa tutte le leghe del Comitato 4.0, ma che fondamentalmente va a abbracciare anche chi non è parte del Comitato 4.0, perché poi è tutto lo sport di base, lo sport dilettantistico, lo sport semiprofessionistico e quello che si avvicina un po' al professionismo. E abbiamo fatto presente un po' quali sono i rischi su cui si sta andando. Il ministro, devo dire che si è detto molto vicino e ha compreso, ha detto che capisce benissimo la nostra situazione e che farà il possibile per dare manforte, per supportarci nelle nostre richieste. Si è impegnato entro il 7, perché il 7 scade il decreto, quindi entro il 7 si è impegnato a portare avanti delle iniziative all'interno del nuovo decreto, che sia quello per l'ingresso nei palazzetti contingentato a una percentuale, sia quello anche di reperire altri fondi. Quindi aspettiamo, vediamo, siamo molto fiduciosi su quello che ci ha detto il ministro, non vogliamo assolutamente pensare diversamente da quello che il ministro ci abbia detto. Io personalmente l'ho visto molto attento alle nostre richieste, quindi spero e mi auguro che dia seguito a quello che ha sostenuto. Pietro Basciano, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, grazie per essere stato nostro ospite qui a Olimpia. Grazie a tutti quanti e speriamo di rivederci sui campi. Assolutamente sotto canestro, presidente. Lei che ruolo gioca? Guardi, preferisco la panchina io. E allora siamo in due, teniamo, mi faccia spazio, ma sempre distanziati però. Beh, assolutamente, bene, grazie, buon lavoro. Qualche sorriso, anche per fortuna con Pietro Basciano. E in chiusura voglio entrare allora in una palestra di basket giovanile per capire come i giovani sportivi stanno vivendo questi tempi così difficili e magari ricavarne anche un messaggio di speranza. Andiamo a Torino allora, nella palestra di uno dei club più significativi a livello giovanile in Italia, la 9+ Campus Piemonte Basketball, dove troviamo Giovanni Teppa, dirigente del club. Benvenuto a Olimpia. Grazie e buonasera a tutti. Giovanni, difficile immaginare di poter fare basket ai tempi della pandemia, eh? Sì, molte difficoltà, soprattutto nella gestione quotidiana e ordinaria dei ragazzi anche che stanno in foresteria, nella gestione degli allenamenti, nella gestione delle attività. Devo dire che durante il lockdown è stato un periodo per noi intenso, perché abbiamo continuato a fare l'attività in remoto con i ragazzi, 3 volte alla settimana tutti i ragazzi facevano attività. Quando siamo tornati in palestra abbiamo fatto un buon lavoro e in questo momento sta continuando per come si può fare adesso. Voglia di sport che però è più forte delle difficoltà. Nel rispetto delle regole si può ancora far quasi tutto, giusto? Guarda, devo dirti che insomma i ragazzi sono ad esempio quelli che fanno attività e sanno perfettamente comportarsi all'interno dell'impianto. Si parla tanto dei ragazzi magari che sono così disattenti, imprecisi, invece i ragazzi seguono con molta attenzione le precauzioni che abbiamo detto loro di adottare, sia sul campo ma anche fuori, quindi sono responsabili di quello che stanno facendo. Bisogna cercare di mantenere il più possibile il distanziamento, ma soprattutto essere ordinati e precisi. Soltanto in questo modo possiamo ridare e restituire la fiducia a tutti per poter tornare negli impianti in piena sicurezza. E allora prendiamo spunto da questi ragazzi, dal loro spirito e dal loro senso del rispetto delle regole, e grazie anche a Giovanni Teppa per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.